fanciulla m'ascolta il tuo signore sarà domani forse solo al mondo non lo cercare che giova al Jesus.

Mamma. Mamma. Quel vino è generoso. E certo oggi troppi di fier ne ho tracannati. Vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi benedite come quel giorno che partì soldato. E poi, mamma, sentite, se io non tornassi, la porta ieri, ma dovrebbe essere cosa. su sel buon dì. D'un gaio rosignuolo la voce mi svegliò. Quale incanto nel risveglio di fiori

mai per me il sole. No, non ti scorderò, ti troverò, ti sognerò. E nessuno mai più, ormai. Vento lieve d'accarezza, un profumar di giovinezza mi fa tremare. La notte io sogno tremando di te. Sei tu bruno stella di love, Vento, portami via con te.

bella bellezza i fiora, e là fuggevo, fuggevo, ora si ne via voluta, di viarne i dolci freni finché suscita la morte, poiché quell'occhio alla cuore ogni possente va. 到歌舞剧场，我是古月。接下来请欣赏1988年6月多明戈与凯瑟琳巴特尔在东京音乐会的精彩现场。列文指挥梅特罗波利坦歌剧院管弦乐团担任器乐部分的演奏与伴奏。音乐会的曲目有命运之力序曲、歌剧乔花女中的二重唱离开巴黎的日子、唐帕斯奎莱先生中的咏叹调姑娘的秋波、拉美摩尔的露琪亚中的咏叹调你张开了升天的双翼、爱之甘醇中的咏叹调亲爱的酒、意大利女郎在阿尔及尔的序曲等，下面请连续欣赏。 Thank you. questo palpito ci va m'invana, senza desistere non potrei. Ma se poi vedo, hai ritrovato poi nelle ceneri, poi non scorda la panna, donna dorata, dammi perdono angelico. Chiedi perdono, dammi a solio, ma solo morta mi rende. Non lo amoremo l'angio mio, mai più di mi del vivo tra da te. Non lo amoremo l'angio mio, mai più di mi del vivo. Mai più, mai più. felice de raccogliere rispetta il mio cielo.

e ben la metto in opera, così per una prova. Mi soffrir premiera, dimenticarlo io spero. Comunque l'antico fuoco si estinguerà fra poco. Ancora un giorno solo e il cuore guarirà. Thank you.